Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note della sonata Kreutzer per violino e pianoforte, come avete sentito, di Ludwig van Beethoven, cominciamo l'incontro di questo pomeriggio e salutiamo il professor Gian Giacomo Dardozzi. Buon pomeriggio, professor Dardozzi. Buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori. La sonata Kreutzer, un classico della musica, come mai è rimasta impressa nella sua sensibilità? Perché alterna delle cose molto belle, cioè una grande creatività, un grande slancio di forza e anche malinconia, dolcezza. Quindi è una bella rappresentazione di un animo complesso che ha delle grandi potenzialità. Ecco, questo vuol dire che Gian Giacomo Dardozzi, ricordiamolo, docente di economia monetaria al Politecnico di Milano, commentatore economico, autore di libri, l'ultimo Il futuro dell'Italia, lettera ai piccoli imprenditori, edito dalla Terza, e quindi un economista. Ecco, questo vuol dire che anche gli economisti hanno un'anima. Sì, certo, dovrebbero averla. Io ho sempre cercato di curarla, di insegnarla e di mostrarla quando si discute di problemi che sembrano astratti, ma non possono esserlo, perché hanno a che fare con tanto della società. Ecco, l'economia è stata definita una scienza triste, forse in questo periodo chi l'ha definita così ha ragione. È un'economia che parla molto di crisi, di difficoltà, di perdita di posti di lavoro, di globalizzazione con le implicazioni positive ma anche negative di questo. Una scienza con cui però bisogna fare i conti. Sì, bisogna ricordare che è stata definita come scienza triste quando, nell'epoca dei grandi classici dell'economia, Smith, Ricardo, Marx, questi giganti del pensiero economico, osservando le grandissime trasformazioni legate all'affermazione del capitalismo, si domandavano: ma durerà? Come andrà a finire? E guarda caso, tutti e tre danno delle indicazioni non positive in questo senso, non positive nel lungo termine. E di qui credo l'appellativo di scienza triste, perché prospetta, no, un destino che non è allegro. Però era un discorso di lungo periodo, lunghissimo periodo. Marx voleva che fosse invece breve, perché voleva la rapidità della rivoluzione socialista. E questi, in particolare Marx, ha studiato molto le crisi e l'origine della crisi. Poi i discorsi sono stati ripresi successivamente anche da Keynes. E questo però è un discorso che rimane attuale anche una volta che abbiamo superato, perlomeno la maggioranza dei pensatori, degli studiosi di economia, ha superato l'idea di un destino ineluttabile, no? di un brutto destino ineluttabile. Ecco, possiamo dire quello che rimane è che il capitalismo è soggetto a crisi periodiche. Possiamo dire, ritornando un po' a Beethoven e alla sonata Kreutzer, che molto dipende da chi ha scritto la musica, ma molto dipende anche da chi esegue la musica. Quindi l'economia deve rispettare alcune leggi di fondo, però poi il protagonista resta sempre chi fa l'economia, chi sceglie, il consumatore, il produttore, l'imprenditore. E quelli che fanno la politica economica, i governi, non dobbiamo dimenticarli, perché poi al momento buono, per superare le difficoltà, serve molto una regia dell'economia. Io ho sempre ritenuto che, nonostante sia convinto delle capacità straordinarie del mercato come istituzione, che è la migliore che conosciamo per coordinare le decisioni di milioni di individui e per convogliarla verso un benessere collettivo, dobbiamo anche riconoscere che è un ottimo sistema, ma non è perfetto, e quindi c'è bisogno, no, di un governo dell'economia. E spesso i problemi derivano da o governo sbagliato o mancanza di governo. Mancanza di governo molto, molto influenzata dalla ideologia. Quindi lei ha scritto una lettera ai piccoli imprenditori, una lettera che si chiama Il futuro dell'Italia degli ultimi mesi, un libro scritto dopo la crisi economica del 2009, che dimostra di avere fiducia in fondo nel futuro dell'Italia, nei piccoli imprenditori, nella possibilità del nostro paese di risolvere un po' questo dilemma che era già stato oggetto di un altro libro scritto questo prima della crisi, Miracolo e declino. Siamo sempre in bilico tra miracolo e declino. Sì, questo era il messaggio che veniva da quel libro del 2004. Questa lettera ai piccoli imprenditori, anche se non sembra, anche se molti miei colleghi diranno che ho cambiato idea sulle capacità dei piccoli imprenditori italiani, è il proseguimento di quel discorso, essendomi sempre più convinto nel frattempo che noi abbiamo un serio problema di crescita che è stato aggravato dalla crisi, e da questo punto di vista la crisi per l'Italia, per l'economia italiana, non ha costituito una grossa rivoluzione come è successo per altri paesi. Si pensa all'impatto che ha avuto nel, diciamo, credo liberale così radicato negli Stati Uniti, vedere la necessità di un così massiccio intervento pubblico. Si pensi al miracolo irlandese che era stato osannato dal mondo intero, a cominciare dagli economisti, che è stato spazzato via d'un colpo. Si pensa alla stessa revisione della impostazione politica inglese. L'Italia, tutto sommato, anche grazie alla buona tenuta dei conti pubblici garantita dal nostro ministro dell'economia, non ha la crisi non ha posto problemi nuovi, ha aggravato però un problema già esistente e poco riconosciuto anche dal nostro ministro dell'economia, e cioè un problema di crescita, che è una questione da vedersi non solo in termini assoluti, bassa crescita, ma soprattutto in termini relativi. Relativi rispetto a che cosa? Relativi rispetto alle esigenze future che noi avremo, invecchiamento della popolazione, eccetera, e relative soprattutto, ed è questo il motivo di fondo per cui ho scritto questo libro, alle potenzialità che noi abbiamo. Io sono convinto che la società italiana ha una potenzialità di crescita e di benessere e di progresso civile, che sono collegate fra di loro, enorme, che non viene utilizzata, viene solo parzialmente utilizzata. È una società che si sente appagata, come dice il Censis, che non ha più la capacità di desiderare, di rischiare, di guardare in avanti con fiducia. Io non sono molto d'accordo su questa impostazione, insomma su questa idea, perché mi sembra che sia una società che sta prendendo coscienza di come potrebbe essere, sta prendendo coscienza dei propri difetti e della necessità di migliorare. Incontri. Ancora ancora con le note della sonata Kreutzer, con questo crescendo di musica. Continuiamo il nostro incontro con Gian Giacomo Nardozzi, docente di economia monetaria al Politecnico di Milano, commentatore economico, ricercatore. Stavamo parlando, nella prima parte abbiamo parlato dell'Italia, dei problemi italiani, di questa società che cresce poco. Gli anni 2000 sono stati anni di bassa crescita, la crisi ha accentuato ancora di più questo problema, si sta ripartendo in questi mesi, ma su livelli più bassi di prima di tornare ai livelli del 2004-2005 ci vorrà ancora qualche anno. Allora dicevamo, perché l'Italia cresce poco? Professor Nardozzi. Io credo che, partendo proprio dal titolo di questo mio ultimo libro, Lettera ai piccoli imprenditori, credo anche perché i piccoli imprenditori si occupano poco dei problemi del paese, si occupano moltissimo e benissimo delle loro aziende. Forse questo li prende eccessivamente, cioè porta via naturalmente molto, molto tempo, però hanno un'impostazione del tipo: il paese va male, e questo lo riconoscono, però io me la cavo. Anche in questo momento abbiamo dei segnali abbastanza buoni di ripresa anche con profitti non indifferenti per le piccole e medie imprese, però il paese, direi, in questo momento non possiamo dire certo che vada bene. E proprio da questo io parto per constatare che, riprendo una frase che c'è scritta nel messaggio iniziale del libro, che sintetizza un po' tutto il discorso, che è un'Italia zoppa, quella che procede con una parte così determinante della propria economia e della propria società, come sono le piccole e medie imprese, ma voglio parlare più delle medio-piccole imprese, dicevo, con una parte così importante non si sente responsabile della direzione che prende il paese, perché dice: ci penseranno gli altri, ci penseranno i politici, li abbiamo eletti, eccetera. Però i risultati li stanno vedendo, no? Ecco, ma non sto riferendomi in particolare, diciamo, a questo governo, né nel libro potevo riferirmi molto troppo a questo governo, mi sto riferendo all'esperienza dei governi degli ultimi anni, in cui si ha quello che si nota è un allontanamento progressivo della politica, che diventa autoreferente, diventa sempre più volta su se stessa, e la società che, diciamolo chiaramente, sta andando più avanti della politica, cioè sta progredendo. Io ho cercato di far vedere in che direzioni, per quali motivi, per quali segnali. Allora il discorso è: cerchiamo una riconciliazione, un riavvicinamento fra politica e società. Ecco, credo che i piccoli siano un pilone importante di un ponte che bisogna ricreare fra società e politica. Ecco, un ponte da ricreare, una maggiore partecipazione, che non è solo una richiesta dalla politica di fare qualcosa, ma è forse anche, potrebbe essere, una richiesta alla politica di ritirarsi, di fare meno cose e di farle bene. In Italia lo Stato fa tante cose e molto spesso non le fa molto bene. Forse bisogna ricreare uno spazio di crescita. Abbiamo uno Stato che è un po' troppo invadente, per esempio con la pressione fiscale molto alta, per esempio con i compiti, con gli adempimenti burocratici. Gli imprenditori dovrebbero chiedere allo Stato di fare un passo indietro? Credo che dovrebbero chiedere innanzitutto di discutere assieme il futuro dell'Italia. Prima di tutto stimolando i politici a dichiarare qual è il loro progetto per il futuro del paese. Io di progetti non ne vedo. Senza un discorso che parta da questo punto, è inutile cominciare a pensare di ridurre la presenza dello Stato, aumentarla, fare una certa politica, eccetera. Bisogna partire dall'origine. Una volta che ci mettiamo attorno al tavolo, ragionando su un progetto paese, allora in questo possono essere inquadrate tutte le legittime rivendicazioni che i piccoli, come i lavoratori, come altri componenti della società, hanno nei confronti dello Stato e del governo. Il punto è, insomma, quello che qualifica una classe dirigente, e io questo vorrei che diventassero i piccoli, è non il non chiedere, ma inquadrare le proprie richieste in una visione dei problemi più generali della collettività e del paese. Ecco, nel secolo scorso la politica industriale era fatta attraverso la svalutazione della lira da una parte e attraverso la presenza molto forte delle aziende pubbliche, dell'IRI. Ricordiamolo negli anni 70-80 che aveva una funzione anche di sostegno un po' dell'economia complessiva. Che cosa può sostituire questi due elementi che non ci sono più, fortunatamente direi, da una parte perché ci siamo agganciati all'Europa, dall'altra perché abbiamo liberato delle risorse di mercato? Che cosa può sostituire? Beh, può sostituire l'impegno da una parte degli imprenditori a valorizzare l'attività della loro impresa, e uso il verbo valorizzare non a caso, perché qui non può più essere un discorso di minimizzare i costi, perché potremmo minimizzare tutti i costi che vogliamo, ma non arriveremo mai ad avere il costo del lavoro che hanno i concorrenti dei paesi emergenti. L'impegno è nella valorizzazione delle produzioni che noi facciamo. Dall'altra parte, questa valorizzazione deve trovare, diciamo, fertile sostegno da parte dei lavoratori. Secondo me questo c'è già, avviene già nelle piccole e medie imprese, perché i lavoratori si sentono partecipi. Allora, perché, diciamo, non cercare di valorizzare questa fusione di interessi, questa collaborazione fra capitale e lavoro che ha sostituito il conflitto, no? Che ha caratterizzato tanta parte del secolo scorso. Queste sono le linee, diciamo, di priorità per il rilancio della competitività, lo Stato, la politica industriale. La politica industriale deve agevolare questo, da un lato, e dall'altro deve fare una cosa che può fare, forse la sta anche facendo, ma in maniera così, forse non coordinata o non cosciente, che è quella di valorizzare il ristrettissimo nucleo di grandi imprese che c'è rimasto in Italia, che per gran parte sono ancora sotto controllo pubblico o in ogni caso influenzate dallo Stato. Ecco, io credo che lo Stato debba prima di tutto impegnarsi a fare il massimo per le imprese che ancora è in grado di influenzare attraverso il controllo, insomma attraverso la partecipazione, no? Che sono le grandi, certo, imprese, che anche qui, insomma, fa riflettere il fatto che le fra le poche grandi imprese che sono rimaste in Italia, in realtà la maggioranza sono ancora sotto il controllo, sotto la partecipazione, perlomeno sotto il controllo pubblico. Perché il resto è sparito. Io auguro alla Fiat di riaffermarsi, ma essendo un intenditore di automobili, credo di poterlo dire, da quello che ho visto, cioè la valorizzazione, se vogliamo valorizzare il marchio Lancia, facendone semplicemente un nome sotto il quale far circolare in Europa i prodotti Chrysler, non mi sembra che sia la via giusta. Ecco. Ecco, siamo in conclusione, professor Nardozzi, guardando appunto al suo libro Il futuro dell'Italia, lettere ai piccoli imprenditori, ricordiamolo, edito dalla Terza. Se dovesse riscriverne adesso la conclusione, cosa metterebbe in fondo a una lettera dell'imprenditore in questo fine gennaio del 2011, quasi come augurio di buon anno? Forza, cosa aspettate? Perché da quando l'ho finito, e non l'ho finito da molto, le cose sono peggiorate, saranno migliorate nei loro conti, ma prendano coscienza del fatto che i loro conti alla fine non possono andare bene se il paese va male. Ma comunque c'è al fondo l'ottimismo della volontà. Sì. Questo rimane. Sì, come in Kreutzer, nella sonata Kreutzer. Grazie mille. Ringraziamo il professor Gian Giacomo Nardozzi, docente di economia monetaria al Politecnico di Milano, autore del libro Il futuro dell'Italia, lettera ai piccoli imprenditori, che ci ha fatto compagnia in questo pomeriggio di domenica, così come ringraziamo Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica ancora a tutti. Thank you.